Anche stavolta grazie a te, amico Piero, io posso uscire fuori con la mia ragazza. E se telefona papà, o digli che sto con te, anche stavolta ti crederà, lui ti crederà. Ma spero sempre dentro me, amico Piero, che non la trovi pure tu una ragazza. Perché se esci pure tu, che scusa prenderò? Un altro amico come te non lo troverò. Amici miei, se avete degli amori segreti, chiamate Piero al 57903. Anche stavolta grazie a te, amico Piero, io posso uscire fuori con la mia ragazza. E se telefona papà, digli che sto con te, anche stavolta ti crederà, lui ti crederà. Ma spero sempre dentro me, amico Piero, che non la trovi pure tu una ragazza. Perché se esci pure tu, che scusa prenderò? Un altro amico come te non lo troverò. Amici miei, se avete degli amori segreti, chiamate Piero al 57903. Anche stavolta grazie a te, amico Piero, io posso uscire fuori con la mia ragazza. E se telefona papà e digli che sto con te, anche stavolta ti crederà, lui ti crederà. Anche stavolta ti crederà, lui ti crederà. Anche stavolta ti crederà, lui ti crederà. Sì, sì, ti crederà.